Scuola in controluce. Un anno fa, il 5 novembre scorso, Giacomo Scalmani, 12 anni, veniva travolto e ucciso in bicicletta a Milano. Era un sabato sera di pioggia, uno sportello di una macchina parcheggiata in seconda fila aperto al momento sbagliato, un tram che passava proprio in quel momento e Giacomo se n'è andato. Il sindaco Pisapia, fresco di nomina, allora si fece vedere ai funerali. Le mamme lì gli chiesero di impegnarsi per una Milano diversa. Pisapia, che proprio la scorsa settimana è voluto tornare a far sentire la sua presenza alla comunità a cui Giacomo apparteneva, premiando i vincitori della Stra Carlo Porta, la corsa non competitiva della scuola media di Giacomo, che a lui ha voluto dedicare quella maratona. Un'intera città dopo quella morte si era interrogata su quanto accaduto. È possibile, davvero possibile, che Milano sia una città in cui un ragazzino di 12 anni non può tornare a casa dall'oratorio in sella alla sua bici? Le nostre coscienze si sono per fortuna mobilitate, si sono anche trasformate in un progetto che speriamo diventi presto realtà. E ne parliamo questa mattina con i nostri ospiti di Scuola in Controluce e l'assessore alla mobilità Pierfrancesco Maran e Francesco Zaini, che è uno dei responsabili del progetto di mobilità dolce Tortona Solari, nato proprio in memoria di Giacomo. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Allora, Radio 24 non dimentica. Lo scorso anno, dopo l'incidente di Giacomo, avevamo chiamato la vice sindaco Maria Grazia Guida e voglio partire proprio dalle sue parole di un anno fa. Ci siamo detti con il sindaco e con l'assessore Maran che l'obiettivo di questa giunta è quella di creare una città a misura di bambini, dove queste cose non possono, non devono più accadere. Dobbiamo in questo fare una grande operazione culturale, perché le persone si riapproprino anche della lentezza del procedere, del camminare sicuri con un utilizzo di mezzi pubblici efficienti e piste ciclabili protette. Ecco, per fare questo, non so come dire, è una promessa che facciamo al piccolo Giacomo oltre che alla città, ma credo che questa sia la strada giusta. Allora ogni anno ci risentiremo in occasione dell'anniversario della morte di Giacomo per verificare quanto fatto. Mi prendo questo impegno. L'assessore Maran, è da lui che voglio partire. Vi siete presi un impegno molto importante un anno fa, con Giacomo e con tutta una comunità. Che cos'è rimasto di quell'impegno? Che cosa è successo in questo anno? Perché Radio 24 non dimentica. Guardi, per noi quello è un impegno importante, perché quello che stiamo tentando di fare sotto vari fronti è avere una svolta sostenibile della città di Milano. Questo passa da una gestione migliore del traffico e anche, come diceva il vice sindaco Guida, trasformando la città in una città a maggiore misura di bambini. E dal punto di vista della mobilità sostenibile, di sicuro la cosa più rilevante che abbiamo fatto è stata Area C, che ha ridotto il traffico del 34%, ha convinto anche tanti milanesi a usare di più i mezzi pubblici e le biciclette rispetto a prima. Ora stiamo lavorando per indirizzare gli investimenti verso questa svolta sostenibile. Proprio in questi giorni è in discussione il piano delle opere, che permette un finanziamento molto importante alla trasformazione della rete ciclabile. Siamo anche intervenuti, parlando pure del caso specifico, in tre situazioni che sono simili a quella di Via Solari. In Via Solari, intanto, dove il Consiglio di zona sta discutendo le modalità per fare la corsia preferenziale, la sosta irregolare non è più tollerata. Tra l'altro le multe per le auto in doppia fila sono anche aumentate del 30% quest'anno. Abbiamo risolto un'altra via che aveva delle situazioni simili, dove per fortuna non ci sono state tragedie come quella del piccolo Giacomo, e a breve faremo interventi in una terza via che ha le stesse tipi di caratteristiche. E poi quello che secondo noi è ancora più importante, cioè un conto sono le azioni che possiamo fare infrastrutturali per migliorare la qualità della città, e un conto se anche attraverso questi interventi ci riscopriamo comunità. Allora ho ascoltato con molto piacere la proposta del comitato Tortona Solari che ho incontrato qualche settimana fa, e che ha presentato un progetto per partire da quel quartiere per dimostrare che il tema delle zone 30, della moderazione della velocità, può essere uno strumento di evoluzione della città di Milano. Lì, come altrove, vogliamo far sì che questi progetti vengano davvero realizzati nel corso di questi 5 anni. Francesco Zaini, allora, Maran ha messo molta carne a cuocere, ha parlato dell'area C, una realtà davvero molto importante questa, che ha chiuso comunque una zona, ampia zona di Milano, sperando tra l'altro che domani un Consiglio di Stato non la blocchi nuovamente. Ha parlato di multe alle macchine in seconda fila. Ci fu una coda terribile dopo l'evento di Giacomo, di persone che si lamentavano perché venivano messe multe alle macchine in seconda seconda fila. Zaini, questa è stata una promessa mantenuta? Sì. Questo possiamo dire che è stata una promessa mantenuta. Se noi andiamo in via Solari oggi vediamo una situazione molto più ordinata, si è tornati essenzialmente alla legalità dal momento che il divieto era preesistente all'incidente a Giacomo Scalmani. Quindi questo è stato un passo sicuramente. Quindi quelle macchine in seconda fila non ci sono più, insomma, una cosa, un obiettivo è stato raggiunto. Un obiettivo è stato raggiunto, noi riteniamo però che questo sia, come posso dire, un elemento neanche prioritario, se vogliamo, nell'azione complessiva che si deve fare per dare una maggiore vivibilità al quartiere. E certo, direi anche una manovra, cioè questo è l'obbligo, no? Visto che la legge dice che non si parcheggia in seconda fila, non deve essere neanche un obiettivo, deve essere una realtà, punto e basta, come dire. Sì, assolutamente. Poi l'obiettivo che noi ci siamo posti come genitori e cittadini del quartiere non è soltanto quello di punire chi non si comporta in maniera adeguata, ma anche di creare appunto maggiore visibilità nel quartiere e sicurezza per i nostri ragazzi. Qual è la vostra proposta? Me la raccontate? Diciamo in maniera sintetica, noi ci siamo posti l'obiettivo di rendere possibile sicuri percorsi casa-scuola e fra scuola e luoghi di aggregazione a piedi e in bicicletta, quindi con percorsi ciclopedonali sicuri, e ci siamo anche resi conto che questa cosa sarebbe difficile riuscire a realizzarla con interventi strutturali significativi in breve tempo, quindi ci siamo posti l'obiettivo di farlo con interventi tendenzialmente a basso costo, ma fattibili in tempi relativamente rapidi. Brevi. Tipo? Esempio? Ma la logica complessiva è quella di diciamo di individuare i percorsi, cosa che abbiamo fatto fra l'altro anche con l'assistenza di ciclopi, di vedere dove era possibile, e questo l'abbiamo individuato, portare le auto in sosta verso il centro della carreggiata, ottenendo in questo modo due obiettivi. Il primo è quello di creare dei percorsi pedonali, quindi fra le auto in sosta e i marciapiede, percorsi sicuri che io non chiamo piste ciclabili solo per il fatto che la parola evoca investimenti e decisioni complesse. Invece basta una striscia per terra, poi tutto sommato. Esatto, insomma. Basta spostare diciamo gli stalli delle auto, quindi riverniciare l'asfalto ed eliminare alcuni ostacoli che inevitabilmente in alcuni passaggi, alcuni incroci si possono trovare. Maran, la facciamo questa striscia per terra? Guardi, io ho assistito alla presentazione del progetto, credo che sia una progettazione di qualità, tra l'altro in linea con molte delle iniziative che stiamo cercando di prendere anche in altri quartieri. Ovviamente non sono iniziative a costo zero, stiamo valutando con gli uffici costi e una valutazione tecnica dell'iniziativa, però la risposta è sì, li facciamo, adesso ovviamente stiamo vedendo tutti i dettagli, ma di sicuro diventa una delle nostre priorità, anche perché è nato in una maniera così partecipata dal territorio. È passato però già un anno, insomma, diamo una priorità a questi progetti, che ovviamente non sono solo progetti per questa zona, ma poi si possono tranquillamente estendere anche in altre zone. Diamo una priorità a questi progetti. Mi lasci dire che questo anno non è passato invano, sia perché appunto c'è stata un'attenzione dal rispetto delle regole che sarà obbligatorio per legge, ma nelle nostre città, non solo Milano, purtroppo non è, perché molti pensano di poterle violare in forma tollerata, ma non è passato invano anche perché il lavoro dei cittadini di questo anno per capire come progettare e la necessità di intervenire in chiave sostenibile è stato molto più fondamentale di quello che si pensa. Quindi valorizziamo il lavoro che c'è stato fatto per un anno sia dall'amministrazione ma soprattutto dai comitati, e usiamo l'anno successivo per realizzarlo concretamente in strada. Zaini, dicevamo allora le strisce per terra, poi che altro? Dicevamo, il secondo aspetto è che spostando le auto verso il centro della carreggiata inevitabilmente si restringe la carreggiata e si rallenta il traffico. E certo. Questo è il secondo obiettivo, che mi pare in linea anche con i piani del comune, e peraltro colgo l'occasione per così fare un po' il bilancio dei nostri rapporti, sì, che sono culminati appunto nell'incontro che l'assessore Maran citava. Sì, perché vi siete visti qualche giorno fa, avete condiviso insomma questo progetto. Sì, no, direi, guardi, io devo dire in generale ai piani alti di Palazzo Marino c'è sicuramente grande sensibilità e attenzione. Il problema è quando si scende all'attuazione e quando, certo, lì sono e quando ci si confronta con gli uffici amministrativi o gestionali. Noi abbiamo avuto alcune interazioni con la polizia locale che veramente direi imbarazzante per certi aspetti. Assessore, burocrazia un po' complicata. Guardi, sai, noi adesso governiamo da un anno e lei giustamente ci dice è passato un anno, cosa avete fatto? Noi governiamo da un anno dopo 20 anni di opposizione e anche avere riorganizzato gli uffici comunali, la macchina comunale rispetto alle nuove priorità, spiegare che il rispetto delle regole sulla strada, la mobilità sostenibile diventa una priorità per questa amministrazione, è stato non complicato ma comunque ha necessitato di diversi mesi, quindi ora noi abbiamo c'è ancora lavoro da fare. Con cui lavoriamo ovviamente molto meglio e che stanno capendo quali sono le priorità della nuova giunta. Grazie mille ai miei due ospiti, all'assessore alla mobilità di Milano per Francesco Maran. Mi raccomando, Maran, si ricordi di questa vicenda e si ricordi degli impegni rinnovati a Radio 24. Purtroppo è impossibile dimenticarla. E grazie mille anche a Francesco Zaini, uno dei responsabili del progetto Tortona Solari, nato proprio in memoria di Giacomo. Scuola in Controluce torna lunedì prossimo alle 13.30, domani invece alla stessa ora Italia in Controluce. Un saluto da Maria Piera Ceci.